Consolazioni e dolori dell'esilio. L'alunno di Don Ballet o il vecchio maestro, i libri di studio, il sacerdozio, si era a poco rassegnato alla dura prova. Quando sarebbe finita? Non osava pensarci. Si gettava più fiducioso che mai nelle braccia della provvidenza, sua unica speranza. Unico suo rifugio era la preghiera. Tuttavia, un segreto pensiero lo addolorava. Che ne era dei suoi addardigli? Essi lo credevano in guerra, peggio ancora. Il capitano Blanchard aveva certamente agito e a quell'ora suo padre era sotto la minaccia, sua madre viveva nell'angoscia. Ma a Noè c'erano anche altre preoccupazioni. Quella buona vedova Fayotte, che per Giovanni Maria era una vera seconda madre e lo trattava come uno dei suoi figli, deperiva per indebolimento del sangue. Per aiutarla ed anche per distrarsi dalle sue preoccupazioni, egli si gettò interamente nel lavoro manuale. Mescolato tra i lavoratori di Robbins, sembrava uno di loro, ma già malnutrito, nonostante le rimostranze della madre Fayotte, egli mangiava appena. Si buscò un raffreddore, la notte fu assalito dalla febbre ed ebbe un flusso di sangue che si curò come si poté. Fu salvato dalla sua costituzione robusta. Da allora, pur stando in guardia, si preoccupò meno di una possibile ispezione dei gendarmi. Non temeva più di recarsi alla messa domenicale. Molti bravi cristiani lo notarono e dicevano tra di loro: «Non abbiamo mai visto un giovane così buono». La canonica di Noè è molto vicino alla chiesa. Sul pendio, un po' più sotto, dalla parte volta verso i boschi della Madeleine, c'era una casupola abitata da due sorelle, le signorine Dadol. Uscendo dalla messa, che ascoltava ogni giorno, Giovanni Maria faceva una piccola sosta presso quelle donne, per parlare con loro di religione. Quando furono sciolte le nevi, le strade divennero un po' meno impraticabili e tornarono a farsi vedere i gendarmi. Talvolta le temute uniformi apparvero all'improvviso a Robin, sia di giorno che la sera. Ora, se ne è conservata la tradizione nella famiglia Fayotte, ogni volta che dalla Pocadier, da Saint-Aon-la-Châtel e da Renason i gendarmi giunsero di notte a Robbins e entrarono nella cascina della vedova, non vi trovarono mai il coscritto renitente. Avvertito da non si sa quale presentimento, Giovanni Maria Vianney aveva preso la via dei boschi. Un giorno, tuttavia, poco mancò che venisse pescato. Un pomeriggio dell'estate del 1810, mentre Jérôme Vincent lavorava non lontano dalla fattoria, apparvero sulla strada dei gendarmi. Il segnale convenuto avvertì il renitente. Da un po' di tempo i più vecchi dei ragazzi Fayotte e i figli del sindaco erano stati messi a parte del segreto. C'era da aspettarsi tale sorpresa. Per cui, tagliando due travetti vicino alla rastrelliera, era stata praticata nell'assito del fienile un'apertura abbastanza larga perché ci potesse passare un uomo. Agile e eccitato, il coscritto si lanciò nella stalla e, aggrappandosi alla rastrelliera, entrò nel nascondiglio, si rannecchiò sotto un mucchio di fieno e attese, raccomandandosi a Dio. Che i gendarmi l'avessero visto fuggire? Poteva darsi. Comunque, nel fienile fecero molte ricerche che fecero tremare i testimoni della scena. Il fieno in fermentazione, surriscaldato dalla esalazione della stalla e dal sole che dardeggiava sulla tettoia, lo soffocava. In più, un gendarme, esplorando il mucchio di fieno sotto il quale era rannicchiato il nostro poveretto, lo trafisse con la punta della spada. Ma nonostante il vivo dolore, egli non si tradì. Più tardi, raccontando i suoi ricordi di Noè, egli confesserà di non aver mai tanto sofferto in nessun momento della sua vita e che allora promise a Dio di non lamentarsi mai. «Ed ho mantenuto la parola», aggiungeva candidamente. «Alcuni minuti di più in quella stufa ed egli sarebbe senza dubbio morto asfissiato. Ma i gendarmi, ritenendo di aver cercato abbastanza, se ne andarono a rinfrescarsi dal sindaco, dall'altra parte del muro». Ancora a questo tempo si riferisce un'altra irruzione della gendarmeria che diede luogo a un piccolo fatto che ci viene rivelato da un testimone inatteso e sospetto che però quel giorno disse la verità. Verso il 1840 si condusse al villaggio di Ars una povera donna che sembrava veramente un'ossessa. Saltava, ballava e parlava in modo strano. Si riunirono attorno a lei dei curiosi ed ella si mise a raccontare la vita di ciascuno. Ora sopravvenne il Vianney. «Quanto a te», gli dichiarò quella donna, attraverso la quale parlava un demonio, «non ho nulla da rimproverarti». Poi, riprendendosi, «sì, tu una volta hai preso un grappolo d'uva». «È vero, ma per pagarlo ho messo un soldo sotto il ceppo nel muro». «Ma il proprietario non l'ha avuto». Infatti, il Vianney raccontò che un giorno in cui si era dovuto nascondere per la coscrizione, aveva preso un grappolo d'uva perché divorato dalla sete. La madre Fayot a Dardigli. A metà del 1810 Giovanni Maria ricevette nuove dalla famiglia. Un medico aveva prescritto a madre Fayot le acque minerali Chambonnier-les-Bains. Quella stazione termale è a 9 km a ovest di Lione, quindi molto vicino a Dardigli. La malata esitava. Era un bell'incomodo e una bella spesa. Giovanni Maria Vianney insistette che desse ascolto al medico. Laggiù ella avrebbe ritrovato le sue forze e ne avrebbe riportato notizie. Del resto non doveva preoccuparsi troppo delle spese del viaggio. Lui che le doveva la vita avrebbe anticipato un po' di denaro ed ella sarebbe stata accolta nella casa dei Vianney. Il povero esiliato scrisse per i suoi una lettera di dolore e di pentimento. Tuttavia egli non diceva dove era nascosto. Clementina Fayot, ricevuto in prestito 100 franchi, partì per Chambonnier. Secondo il racconto di suo figlio Gerolamo, ella si presentò alla casa dei Vianney. Siccome si faceva una difficoltà per darle alloggio, mostrò la lettera alla madre del servo di Dio, la quale fu tanto contenta di ricevere nuove del figlio che pianse di gioia e abbracciò mia madre. «Vi alloggeremo», disse, «e vi assisteremo». E le raccontò che un giorno, molto preoccupata, era andata a trovare Don Balley, parroco di Ecugli, il quale le aveva risposto: «Buona donna, non state in pena per vostro figlio. Egli non è né morto né ammalato. Non sarà mai soldato, sarà prete». Il rude Matteo Vianney, da parte sua, non parve molto entusiasta della visita. Che voleva quella misteriosa forestiera che parlava con sua moglie? Né la lettura della lettera lo fece arrendere. Già salassato da parecchie ammende, il contadino era minacciato dai gendarmi della guarnigione. «Ti farò mangiare fin l'ultimo soldo», gli aveva detto il capitano delle reclute Blanchard, venuto a Dardigli per un'inchiesta sulla scomparsa del coscritto Vianney. «Giovanni Maria, dopo tutto, non aveva che da fare come gli altri», ripeteva suo padre. «A casa sarebbero stati tutti più tranquilli». «Mi sembra», gli rispose Claudina, «che non siate molto soddisfatto di sapere che vostro figlio è a casa mia. Dove abitate, perché possa venire a cercarlo? Anche se sapeste dove abito, lo nasconderei più lontano. Quello vale più di tutti i vostri averi». Dopo 18 giorni, la madre Fayot se ne tornò a Noè. Fu ricondotta fino a Tarare dal signor Vianney. Giovanni Maria fu felice di ricevere notizie della sua famiglia, ma soffrì nell'apprendere le preoccupazioni di suo padre per causa sua. Certamente egli non aveva voluto tutto ciò. Non aveva fatto che subire il suo destino. Non sapeva come sarebbe uscito da quell'imbroglio. Tuttavia, la sua viva attrazione per il sacerdozio non era scemata. Verso la metà di settembre pensò di farsi arrivare i suoi libri di studio. «Resto troppo indietro», spiegò alla buona madre di Noè. «Se volete, studierò nella mia camera e vi pagherò». Si scusava di non poter prendere parte ai lavori dell'autunno. Senza difficoltà fece recapitare a Ecugli una lettera e la vedova Bibot, persona sicura che abitava vicino alla canonica e aveva visto Claudina Fayot durante il suo soggiorno presso i Vianney, portò a Robbins il pacco di libri lasciati da Giovanni Maria presso il cognato Melin. E lo scolaro 24enne riprese in mano la sua vecchia grammatica latina. L'amnistia liberatrice. Ma non la studiò a lungo nella sua cella più che monastica. La stessa persona, alla fine di ottobre, gli recò una buona nuova. Che gioia! L'alunno di Don Valley non sarebbe più stato ricercato, era libero, e Cugli d'Ardigli lo attendevano. Come avvenne questa sorpresa della provvidenza? I tempi erano diventati migliori. La pace, una volta tanto, regnava quasi in tutta l'Europa. Napoleone, vincitore dell'Austria, aveva accordato un'amnistia in occasione del suo matrimonio con l'arciduchessa Maria Luisa, 2 aprile. Il capitano Blanchard, ora meno terribile, fece sapere ai viennesi di Dardigli che il loro figlio poteva beneficiare di quell'atto di clemenza e non era più soggetto alla coscrizione, se poteva procurarsi un sostituto. In tal modo, per uno strano cambiamento delle cose, quell'ufficiale di Rohan che l'anno precedente minacciava di far condurre Giovanni Maria incatenato fino alla caserma di Bayonne, s'adoperò per cavarlo d'impaccio. Il più giovane dei viennesi, Francesco, detto Cadet, che era nato il 20 ottobre 1790, aveva raggiunto l'età di 20 anni. Gli era toccato in sorte un numero alto, per cui il suo arruolamento veniva ritardato. Il capitano Blanchard consigliò il giovane coscritto ad arruolarsi prima del tempo. In tal modo avrebbe potuto fare la parte del sostituto voluto dalla legge. Anche il padre era contento ad una sostituzione simile, che lo avrebbe liberato dai soldati della guarnigione che, volente o nolente, aveva dovuto alloggiare in casa sua. Cadet si lasciò convincere. Con atto notarile si impegnò a sostituire il fratello dietro il versamento di 3.000 franchi che Giovanni Maria avrebbe versato nella sua parte di eredità. Incorporato al 6° reggimento di linea, si mise in cammino per Falsburg, dove giunse il 20 agosto. Le ultime notizie, divenuto caporale, sono datate da Francoforte sul Meno, all'inizio della campagna del 1813. I suoi genitori non lo rividero mai più. Si crede tuttavia che egli non sia morto in guerra. L'addio a Noè. Nella casa della buona vedova Fayot, quando appresero della prossima partenza di Jérôme Vincent, versarono le lacrime. Soprattutto pianse la piccola Claudina, che si era affezionata molto a lui. Diceva alla mamma: «Allora non avremo più cugini». Tutti coloro che egli aveva avuto la fortuna di conoscere a Noè appresero con pena la notizia della partenza di colui che col continuo buon esempio li edificava. Fu una gara nel testimoniargli il proprio attaccamento. Jérôme sicuramente un giorno sarebbe diventato prete. Non si poteva provvedere già sin d'ora al suo corredo. La madre Fayot lo costrinse ad accettare delle salviette che un tempo aveva ricevuto come regalo di nozze. Le signorine d'Adol, che abitavano vicino alla canonica, fecero una colletta in parrocchia. Da Renason venne un sarto per confezionare un abito talare al futuro Don Vianney, di cui ora si conosceva il vero nome. Il giovane dovette per un'ora indossarlo per mostrare ai suoi amici di Robbins l'aspetto che avrebbe avuto più tardi. «Tornerete tra noi come parroco», gli dicevano sorridendo con le lacrime agli occhi. Una buona vecchietta gli portò 30 franchi. «Mia buona donna», le chiese Giovanni Maria, «non avrete mica dovuto fare un prestito per farmi questa bella offerta?» «Oh no, è quello che ho preso vendendo il mio porcellino. Mi rimane ancora la capra e mi basta. Prendeteveli. Ve ne prego, vi ricorderete di me quando sarete sacerdote». Uno degli alunni dell'ex maestro Jérôme, forse uno dei figli del sindaco, volle provvedere alle spese del viaggio di ritorno. In un mattino invernale, probabilmente all'inizio del gennaio 1811, Giovanni Maria Vianney, dopo un ultimo rivedersi rotto dai singhiozzi, lasciò per sempre la fattoria di Robbins. Il tempo d'esilio, il tempo di tristezza e di bando era terminato. La sua buona madre e cara benefattrice volentieri avrebbe voluto riportare alla sua vera madre quel figlio adottivo, ma non ebbe la forza. Ad accompagnare il santo fino alla sua casa di Dardigli fu Luigi, il suo figlio maggiore, che aveva allora 14 anni. La morte della madre. Maria Vianney si strinse al cuore quel caro figlio che tanto aveva patito, ma anch'essa portava sul suo volto le tracce di lunghe sofferenze. Troppe lacrime silenziose aveva versato, troppe emozioni soffocate le avevano spezzato il cuore. Il suo caro piccolo prete, essa infatti lo vedeva già in sogno all'altare, era tornato a lei, ma per quanto tempo ne avrebbe potuto godere? Alcune settimane dopo il ritorno di Giovanni Maria, nella casa paterna, l'8 febbraio sua madre, la sua santa mamma, si spegneva all'età di 58 anni. Il santo ne avrebbe conservato il commovente ricordo per tutta la vita. Parlandone, piangeva ancora e diceva che dopo averla perduta non si era più attaccato a nulla su questa terra. Conclusioni e riflessioni sul soggiorno a Noè. Giovanni Maria Vianney non dimenticò mai i mesi trascorsi a Robin. Egli non vi ritornò più nonostante la sua promessa e il suo desiderio. Ricevette però fino alla fine della vita la visita di qualche vecchio amico conosciuto in quei tempi di allarme. Dopo la morte del santo, gli abitanti di Noè ameranno venire in pellegrinaggio sulla sua tomba. Una persona di quel paese che ho incontrato l'anno scorso, dichiarava nel maggio 1864 Don Dubois, vi diceva che vi era ancora vivo il ricordo della sua pietà. E pare proprio che tra quelle buone persone non si sia mai alzata nessuna voce per accusare Giovanni Maria di essere sfuggito volontariamente alla coscrizione. Egli stesso, o per buona fede o perché persuaso che si fosse trattato di un intervento soprannaturale, non si è mai creduto macchiata alla coscienza di quella diserzione. Così parla Don Toccanier, uno dei suoi intimi amici. Non l'ho mai udito né condannarsi né giustificarsi. L'ho inteso soltanto nei catechismi, servirsi della propria storia a mo' di esempio. Quando ero renitente, temevo sempre di vedere sbucare i gendarmi. Così il peccatore, nel suo rimorso, si crede sempre vicino ad essere colpito dalla giustizia divina. E allora non c'era sfumatura di pentimento nel suo modo di parlare, riferisce a questo proposito la contessa di Garay. Infatti, non dobbiamo giudicare un fatto del 1810 con le nostre idee attuali, ma con quelle dei contemporanei. Il conte di Garay, sindaco di Ars, dà la giusta spiegazione quando dice: «Il Vianney fu posto per circostanze nelle quali non c'era stata nessuna premeditazione da parte sua in stato di diserzione. Se il capitano di reclutamento Blanchard non avesse lasciato partire solo sulla strada di Renason il coscritto convalescente Vianney, ma gli avesse procurato i mezzi per raggiungere il suo distaccamento, e se il sindaco di Noes, al quale si affidò, l'avesse aiutato a regolarizzare la sua situazione anormale, il giovane avrebbe senza dubbio preso parte alla guerra di Spagna. Ne fu allontanato per cause che sembrano provvidenziali».